Il quarto processo animico riguarda il modo di regolare l'attività esteriore. Il seguace dell'occultismo cerca di disporre la sua attività in modo da armonizzarla con quella dei suoi simili e con gli eventi che accadono intorno a lui. Rinuncia alle azioni che disturbano gli altri o che sono in contrasto con ciò che si svolge attorno a lui. Cerca di disporre la propria attività in modo da inserirla armonicamente nell'ambiente, nella sua situazione, nella vita e così via. Quando è stimolato all'azione da qualcosa di diverso, esamina con cura come meglio gli convenga comportarsi in quell'occasione. Se agisce per iniziativa propria, pesa e valuta gli effetti del suo modo di agire, con la massima precisione. Il quinto punto da considerare riguarda l'organizzazione di tutta la vita. Il discepolo cerca di vivere in conformità alla natura e allo spirito. Non ha mai troppo fretta e non è pigro. Si tiene del pari lontano dal soverchio affaccendarsi e dall'indolenza. Considera la vita come un mezzo per il lavoro e si regola in conseguenza. Organizza la cura della sua salute, le sue abitudini e così via, in modo che ne derivi una vita armonica. La sesta condizione si riferisce alle aspirazioni umane. Il discepolo esamina le sue facoltà, le sue capacità e si regola secondo tale autoconoscenza. Nulla cerca di fare che ecceda le sue forze, ma neppure trascura alcuna cosa che sia nei limiti loro. D'altra parte, si prefigge scopi che coincidono con gli ideali, con gli alti doveri di un uomo. Non si limita alla parte di semplice ruota nella macchina sociale, ma cerca di comprendere i suoi compiti e di levare lo sguardo al di sopra della vita quotidiana. Aspira ad eseguire i suoi doveri sempre meglio e con maggior perfezione. La settima condizione nella vita animica del discepolo riguarda lo sforzo per imparare quanto più è possibile dalla vita. Nulla si svolge attorno a lui che non gli serva di stimolo per raccogliere esperienze che siano utili per la vita. Se ha compiuto qualche azione sbagliata ed imperfetta, deve trarne occasione per compierla in seguito in modo giusto e perfetto. Al medesimo fine osserva anche l'agire degli altri. Cerca di raccogliere una ricca messe di esperienze da cui attingere con cura utili consigli. Nulla fa senza guardare alle passate esperienze che possono essergli di aiuto per le sue decisioni e attività. Infine, l'ottava condizione richiede che il discepolo dell'occultismo volga in tempo uno sguardo alla propria interiorità. Deve immergersi in se stesso, chiedersi seriamente consiglio, formare e valutare i principi su cui fonda la propria vita, passare mentalmente in rassegna le proprie cognizioni, considerare i propri doveri, riflettere sul contenuto e sullo scopo della vita. Di tutte queste cose si è già parlato nei video precedenti. Qui vengono enumerati soltanto riguardo lo sviluppo del fiore di loto a 16 petali. Esercitandosi, esso diventa sempre più perfetto, perché da tali esercizi dipende lo sviluppo del dono della chiaroveggenza. Quanto più, ad esempio, i pensieri e le parole di un uomo sono in armonia con i processi del mondo, tanto più presto si sviluppa quella facoltà. Chi pensa o dice cosa non vera, uccide qualcosa nel germoglio del fiore di loto a 16 petali. Veracità, lealtà, onestà sono a questo riguardo forze costruttive. Menzogna, falsità, slealtà sono forze distruttive. Il discepolo deve sapere che in questo campo non basta la buona intenzione, ma occorre vera azione. Se penso e dico qualcosa che non si accorda con la realtà, distruggo qualcosa nel mio organo sensorio spirituale, anche se credo di essere animato dalle migliori intenzioni. Succede come al bambino che si scotta quando mette la mano sul fuoco, sebbene lo faccia solo per ignoranza. Il modo caratterizzato secondo il quale sono ordinati i suddetti processi animici permette al fiore di loto a 16 petali di irradiare bellissimi colori e gli conferisce un movimento regolare. Occorre però osservare che la facoltà della chiaroveggenza di cui si è parlato non può intervenire prima che sia stato raggiunto un determinato grado di perfezionamento dell'anima. Finché si ha difficoltà ad orientare la vita in tale direzione, la chiaroveggenza non si presenta. Finché occorre dedicare molta cura ai processi descritti, non si è maturi. Soltanto quando si è progrediti al punto di vivere nel modo descritto con altrettanta abitudine come nella vita ordinaria, si affacciano i primi segni della chiaroveggenza. Quel modo di vivere non deve essere più faticoso, ma deve essere naturale. Non deve essere più necessario esercitare una continua sorveglianza su se stessi e tendere a quella vita. Tutto deve diventare un'abitudine. Vi sono alcune indicazioni per mezzo delle quali lo sviluppo del fiore di loto a 16 petali può essere prodotto in altro modo. La vera scienza occulta le respinge, perché conducono alla distruzione della salute del corpo e alla perversione morale. Sono più facili da eseguire che non quelle qui descritte, che sono lunghe e faticose. Queste però conducono a meta sicura e possono soltanto fortificare moralmente.